Queremos que la gente se levanta para bailar. Cuando nosotros Buonasera amici, eccoci trovati qui a Radio Default con Whiskey Trip. Settimane dure, travagliate per noi per tanti motivi. Innanzitutto sono finiti, diciamo, tipo ieri sera i festeggiamenti per la morte di Andreotti, ora possiamo dirlo, insomma, ne avevamo già accennato qualcosa la settimana scorsa, però talmente tanta festa, talmente tanta felicità ci ha scombussolato un po' tutti i piani e abbiamo anche faticato a portare avanti il lavoro con le playlist e tutto quanto. Va bene, abbiamo aperto con Herb Alpert e i Tijuana Brass con A Taste of Honey. E come stai, Alessà? Bene, grazie Antonio, saluto tutti gli ascoltatori, le ascoltatrici di Radio Default. Siamo arrivati alla puntata numero 9 di Whiskey Trip. L'avresti mai detto, 9 puntate ci hanno sopportato già. No, non l'avrei detto, ma siamo qui alla numero 9 e andremo sicuramente avanti. E salutiamo questa sera, facciamo un saluto speciale a Gianni, il nostro... Ciao Gianni, mi ti ricordi? Ci siamo conosciuti 6-7-8 anni fa, quando era adesso? Però mi ti ricordo perché sei la prima e unica persona che ho conosciuto di Campobasso. Sì, Gianni, il nostro caro amico, un appassionato di jazz, un nostro ascoltatore e la prova che il Molise esiste. E quindi oggi è il suo compleanno, quindi gli facciamo un saluto speciale. E dopo il primo pezzo e dopo che ci hanno accompagnato in questo inizio di puntata i mitici Gypsy King, hanno fatto una introduzione alla... Chi ha fatto? Ma chi erano questi destabilisti Gypsy Kings? Nel 2013 Gypsy Kings ancora. Ancora hanno molti ammiratori. E non so, io leggevo la selezione, era a cura di Evswing e Aldo Pavesi. Never Covered. Non so, due ragazzi nuovi della radio, forse qui. Vabbè, allora un in bocca al lupo a Aldo Pavesi e Evswing. E buona fortuna, ragazzi, dai, qui Gypsy Kings. Buona fortuna, ancora tanti auguri a Gianni. Noi andiamo avanti con la grande musica, come dicono gli speaker seri, come quando ascolti le radio. Le radio, sì, quelle serie. Noi che radio siamo? Che tipo di radio siamo, Alessandro? Una radio underground. Serissima, no? Seria. E allora, avanti con il jazz, con il The Quintet. Il quintetto, perché di quintetti, di quartetti, di tri ce ne sono stati molti, moltissimi nella storia del jazz, ma un quintetto come questo, non a caso The Quintet, il quintetto con Charles Mingus, Dizzy Gillespie, Max Roach, Charlie Parker, Bud Powell, non capita certo tutti i giorni. E noi ascoltiamo un pezzo che è perdido, un pezzo da... tratto da un loro famoso concerto che si tenne a Toronto negli anni dell'art bop. Abbiamo parlato molto la puntata scorsa di Charles Mingus, abbiamo ripercorso anche un pochino la sua lunga carriera e gli inizi della sua carriera. Mingus è stato un grandissimo compositore ma anche un grandissimo contrabbassista. E proprio al contrabbasso lo ascoltiamo con questo quintetto, allora in Perdido, qui su Radio Default. Buon ascolto e ancora grande puntata questa sera. Thank you. Eccoci tornati. Allora sparo subito un altro pezzo da 90. Discepolo del grandissimo Bud Powell, Sonny Clarke è stato uno dei più importanti pianisti jazz del dopoguerra. Durante la sua carriera ha collaborato con Dinah Washington, Mingus, Coltrane, Art Blakey e molti altri, per poi arrivare ad essere, prima di morire nel 63 per problemi di tossicodipendenza, un grande band leader. Ascoltiamo qualcosa quindi proprio di quel periodo, diciamo, e dall'album Sonny Clarke Trio del 57, che vede tra parentesi gli immensi Paul Chambers al contrabbasso e Philly Joe Jones, altra leggenda, alla batteria. Ci ascoltiamo Softly As in Morning Sunrise su Radio Default. Thank you. Eccoci, eccoci, eccoci. Parlavamo di Paul Chambers, immenso del contrabbasso, uno dei più forti. Concordi, Alessandro? Concorda pure Alessandro, raga, quindi non c'è storia. Diciamo che Paul Chambers fu il primo bassista jazz dopo Slam Stewart ad utilizzare l'archetto nei suoi assoli, intanto, che è già una particolarità molto bella secondo me. Egli partecipò ad almeno due incisioni fondamentali della storia del jazz: Kind of Blue, l'atto di nascita del jazz modale di Miles Davis, e Jump Steps di John Coltrane. E appunto, c'è una traccia su Jump Steps, la numero 7, che si chiama, che è quella che ascolteremo, che è Mr. PC, che sta per appunto Paul Chambers, che aveva un rapporto molto particolare con John Coltrane, lo stimava tantissimo. E mo, senza che vi elenchiamo, vi vuoi elencare tutti, Alessandro? No, non gli elenca, dai, te lo risparmio. E comunque ha suonato in moltissimi dischi insieme al nostro caro e bravo John. Forte bevitore, dedito alle droghe, era sicuramente una personalità controversa. Chambers muore di tubercolosi a 33 anni a New York. E quindi ce l'ascoltiamo insieme al nostro Coltrane con Mr. PC su Radio Default. Thank you. John Coltrane and Paul Chambers da Giant Steps, e io rispondo ancora con John Coltrane, che è un musicista che io amo, l'ho detto diverse volte qui a Whiskey Trip, ma come non amarlo, un suono inconfondibile, un artista vero. Ma torniamo indietro. Vabbè, ho riso su artista vero, no, dai, diciamo. Ma come te ne sei uscito, carina, quell'artista io vero? Quando parlo di John Coltrane, non lo so, è come quando sei innamorato, il cervello non ragiona, ti emozioni troppo, mi emoziono troppo. Io la vedo quella luce nei tuoi occhi, questo, ragazzi, cioè, fidatevi di me, ve lo dico io, voi non potete vederlo, però ecco, vi fa capire che Whiskey Trip lo famo col cuore. È vero. Dicevo, torniamo però indietro, indietro nel tempo, con un pezzo tratto da uno dei primi lavori di John Coltrane, che lunghissima carriera inizia negli anni del bebop, dell'hard bop anche lui. Il pezzo si chiama I Want to Talk About You, è una composizione, una registrazione piuttosto lunga, sono 10 minuti di musica. E quindi lasciamo parlare il sassofono di John Coltrane, vi auguriamo buon ascolto, ci rivediamo fra poco, e poi nella seconda parte della puntata invece con il blues. Quindi, ragazzi, seguiteci e buon ascolto con John Coltrane, I Want to Talk About You. Thank you. Vabbè, dai, prima stavo facendo il duro, ma devo proprio ammettere che la grandezza di Coltrane tocca anche me. Rimaniamo quindi in ambito di sassofoni. Parliamo di un grandissimo sassofonista statunitense, Zoo Sims, che iniziò la sua carriera a 16 anni con il gruppo di Kenny Baker, per poi passare nel 1944 nelle orchestre di Benny Goodman e Sidney Catlett. Mentre l'anno successivo si trovò nella sezione sax di Gene Roland a fianco di Herbie Stewart e niente proprio di meno che al 18enne Stan Getz. Ascoltiamo un suo lavoro però più maturo del 1960 nel Zoo Sims Quartet e Jive at Five su Radio Default. Thank you. Zoot Sims Quartet con False Start. Forse i nostri ascoltatori si saranno accorti di questa particolarità di questo pezzo, vero Antonio? Non so. Sì, è una cosa che spesso capita. Vogliamo fare, dai, noi cerchiamo di nasconderlo, però Whisky Trip è anche un programma di cultura. E quindi vuoi spiegare ai nostri ascoltatori cos'è un false start in ambito jazz? Sì, volentieri, che poi in realtà è una cosa piuttosto semplice. False start quando si inizia a suonare ma qualcuno interrompe il pezzo, magari perché si è sbagliato, perché si è soffiato il naso, perché non lo so, qualcosa succede, interrompe il pezzo, la registrazione continua e poco dopo si riprende a suonare. Risate, frizzi e lazzi. Sono un po' sti jazzisti che sa tirano, perché comunque no, aspetta la tonalità, no, non sto nel mood, aspetta sto groove un po' così, sa tirano un po' i jazzisti, ma solo possono permettere. Sì, credo di sì, ma nel caso di John Coltrane se lo possono permettere. E il sassofono di John Coltrane, no, era il pezzo precedente. Invece passiamo ad un altro sassofono e questo pezzo lo dedichiamo al nostro amico Gianni. Lui è Stan Getz insieme al chitarrista Charlie Bird. Il pezzo è Desafinato. Thank you. Stan Getz, Charlie Bird, Desafinado. E, era un pensiero per il nostro amico Gianni, speriamo che abbia apprezzato. E, ma credo di sì, è un fan di Stan Getz. E abbiamo trascorso insieme la prima ora già. E andiamo avanti con ancora il suono del sassofono, con il sassofono di Albert Ayler, sassofonista dallo stile molto particolare. E siamo nei territori del free jazz. Oggi questa sera abbiamo scelto uno standard, un pezzo molto famoso che è Summertime, rivisitato da Albert Ayler con il suo stile particolare. In seguito ci piacerebbe tornare su questo sassofonista che ha avuto una vita, una carriera travagliata. Ci piacerebbe nelle prossime puntate ascoltare anche qualcos'altro. Questa sera invece una rivisitazione del classico Summertime con il sassofono di Albert Ayler, davvero molto molto particolare, potete sentire voi stessi, e ci risentiamo fra poco. Thank you. Eccoci, eccoci, eccoci tornati, ragazzi. Allora, scusate un attimo, mi sto riassestando un attimo perché qui c'è un ospite. Insomma, parlavamo di problemi amorosi e abbiamo scoperto che nel frattempo, insomma, posso aiutare il prossimo con questo mio superpotere. Quindi, se avete problemi sentimentali, se non sapete come affrontare il romanticismo, il post-romanticismo, qualunque filone voi apparteniate, potete scriverci su Skype della radio o sulla nostra pagina Facebook, che è www.facebook.com/whiskytrip. Su richiesta, compilation speciali per le prime notti di nozze, per il primo appuntamento, selezione di jazz per fare l'amore, insomma, Whisky Trip è una trasmissione a 360 gradi. Siamo molto vicini ai problemi dei giovani e probabilmente lo era anche l'immenso pianista Bill Evans, che ci ascoltiamo proprio una traccia a tema. Intanto continuo a risolvere i problemi amorosi del nostro amico e noi continuiamo con questo pezzo dall'album Alone del 68. Dopo aver parlato con me non sarai più alone, ti prometto solo questo, che è appunto A Time for Love. Su un tempo per... vabbè, ma lo parlano in inglese, che dici, io vuoi tradurre? Per i nostri ascoltatori in Russia, in Giappone, sì. Salutiamo Paco dall'Argentina. Ciao Paco, grazie che ci ascolti tutte le settimane. Un bacione, un abbraccio a mamma. Allora, Bill Evans, un tempo per l'amore. A presto. Thank you. Nelle sue vene scorreva sangue cubano, cinese e afroamericano. Cominciò a suonare il pianoforte a 6 anni, passando alla tromba a 13. Tra i pionieri dello stile bebop alla fine degli anni 40 a New York, fu grande amico di Miles Davis, che lo ricorda più volte nella sua autobiografia. Considerato uno dei primi trombettisti jazz moderni, nella sua breve carriera ebbe modo di influenzare molti altri musicisti, Clifford Brown tra gli altri. Parliamo del grande, dell'immenso Fats Navarro, e ci andiamo ad ascoltare un brano registrato insieme al suo quintetto nel 47, che nella spaziale formazione tra i tanti grandi nomi vede addirittura Art Blakey alla batteria, che torna stasera, Alessandro, vedi? Casualità. Non sappiamo se questa gente era consapevole di star rivoluzionando in maniera indelebile il jazz, ma possiamo ascoltarci Barry's Bop su Radio Default. Torniamo e si parla ancora di amore qui a Radio Default. A questo punto, Alessandro, come la vedi prossimamente una playlist dedicata all'amore? Sì, penso che stavamo già infatti facendo una selezione di love songs, di ballad, di jazz per un giusto sottofondo a una dichiarazione d'amore, a una storia importante. Insomma, ci stiamo lavorando. Però cioè, sai che c'è? Magari famola verso San Valentino, che insomma viene l'estate. Famo più. Famo una trasmissione per i single, Porelli. Sì, potremmo anche fare una cosa del genere. Questo è un periodo dell'anno in cui molti single cioè, affrontano brutte situazioni. Cioè, nel senso, viene l'estate, l'accettazione del proprio corpo contro tutta sta gente depilata, cesellata sugli addominali. Difendiamo i single, chi c'ha l'amore, oh, cioè ci dobbiamo pensare a noi, no? Sì, sono d'accordo. E, insomma, Whiskey Trip è anche d'altronde sostegno psicologico, la musica, la fratellanza, la comunità che creiamo qui con Whiskey Trip va anche a sostegno di queste cose, la protezione, i sentimenti. C'avevamo una chiacchiera, regà. C'avevamo una chiacchiera. Allora, senti, facciamo così. Passando dall'amore amore all'amore quello fraterno, voglio dedicare un pezzo a una mia amica del grande Armstrong, che lo ascoltavamo l'altra sera. Questa amica mia parte sempre, tanto nemmeno ci ascolta perché mo chissà dove sta, però ci pensavo oggi mentre facevo la playlist, perché insomma ci ubriachiamo sempre insieme e quindi gli voglio bene. Allora dai, ci ascoltiamo del grande Satchmo, We Have All The Time In The World. That's all we have, you will find we need nothing more. Every step of the way will find us with the cares of the world far behind us. We have all the time in the world just for love, nothing more, nothing less, all love. Find us with the gifts of the world far behind us. Yes, we have all the time in the world just for love, nothing more, nothing less, only eccoci tornati di nuovo qui. E allora dicevamo proprio appunto con Alessandro che insomma ci siamo sfogati stasera, abbiamo fatto una bella vagonata di jazz. Perché ridi su sfogati? È stata una bella vagonata di jazz che c'ha la faccia primaverile. Alessandro oggi non mi piace sto ragazzo, che c'hai? No, sono contento, puntata numero 9, grandi ascolti, grande successo, grande musica, grande divertimento, sono felice. Che storia, vedi, in tempi magari tutti si lamentano, tutti così, e prendete esempio da noi a Whiskey Trip, prendete esempio. E quindi dato che dobbiamo dare esempio, mi gioco subito un pezzo da 90. Chiudiamo questa parte jazz e adesso passeremo bel po' di blues. Abbiamo nomi davvero interessanti per questa seconda metà. E chiudiamo qui allora con Nina Simone, la grande Nina Simone. Te la ricordi, Alessandro? Se la ricorda, amica nostra, ragazzi. Con ci ascoltiamo un pezzone, ragazzi, proprio bello carico. Work Songs su Radio Default. Breaking rocks out here on the chain gang, breaking rocks and serving my time. Breaking rocks out here on the chain gang, cause I've been convicted of crime. I hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Working, I'm working, but I still got so terribly far to go. I committed crime, Lord, I need crime of being hungry and poor. I left the grocery store man breathing when he caught me robbing his store. Hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working, I'm working, but I still got so terribly far to go. Sweet honey baby, gonna break this chain off the rung. I'm gonna lay down somewhere shady, Lord, show his heart in the sun. Hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working, working, but I still got so terribly far to go. Breaking rocks out here on the chain gang. Oh, I've been working and working, but I still got so terribly far to go. E eccoci nella seconda parte della nostra trasmissione di questa sera, puntata numero 9 di Whiskey Trip con blues e jazz solo andata. Dopo la prima parte dedicata al jazz, ci spostiamo con il nostro viaggio in territori blues e allora voglio aprire con una leggenda del blues che abbiamo già ascoltato. Grazie Alessandro, grazie Manu, cioè, mi fai anche arrossire. Prego, so che hai pubblicato un disco poco fa dove collabori appunto con Robert Johnson e allora questo nastro inedito che è arrivato nelle mie mani, allora ho estratto, ho preso questo pezzo che ascolteremo fra poco. Dunque, un mito il nostro Robert Johnson, che ha collaborato con Antonio in queste registrazioni, e possiamo ascoltarlo qui questa sera. Robert Johnson, che è il bluesman conosciuto tra l'altro per essere il musicista che aveva venduto l'anima al diavolo, è un membro eccezionale del club dei 27 e di quelle stelle della musica che pure lui, lo sai che non lo sapevo? Non lo sapevo. Io vedi, ammetto anche la mia ignoranza in diretta, vedi? No, io lo sapevo, ma poi ho scoperto che è morto a 27 anni anche Robert Johnson, quindi è un membro sì, eccezionale del Club dei 27, insieme a Brian Jones, a Janis Joplin, a Jim Morrison, Jim Hendrix e anche Kurt Cobain. E un bluesman vagabondo posseduto dal demonio, il Rimbaud del blues lo chiamavano. E allora ci ascoltiamo Walking Blues. Robert Johnson con Walking Blues abbiamo appena ascoltato qui su Radio Default, e ricordo ai nostri ascoltatori sempre il sito della radio, naturalmente www.radiodefault.it, e la nostra pagina Facebook, facebook.com/whiskeytrip. Vi invitiamo a visitare la pagina, a scriverci, anche a fare richieste, commenti, e noi postiamo le playlist, fotografie, video e altre cose. E infatti c'è una richiesta da parte di un nostro ascoltatore, che è Emanuele. E allora Emanuele ci chiede un pezzo dei Flamingos, un complesso americano, un complesso doo-wop famoso durante gli anni 50 in America. E noi, dato che Emanuele è un ragazzo molto romantico, abbiamo scelto una ballata incantevole che si chiama A Kiss From Your Lips, Flamingos, su Radio Default. Yours nowhere from your lips changed my whole life around. Gee, how blessed I am to have a kiss from your lips. Grande musica, grande blues con i Flamingos qui su Radio Default. Andiamo avanti con il blues, ci avviciniamo verso la chiusura della puntata in questa nostra seconda parte dedicata alla musica blues in vari stili. E il prossimo pezzo è di Louis Thomas Jordan, che era un compositore, band leader, sassofonista. Grande successo, ha avuto un grande successo tra gli anni 30 e gli anni 60, e infatti era soprannominato The King of the Jukebox, perché proprio perché appunto aveva messo in classifica uno dopo l'altro una serie di singoli di grande successo, un portabandiera del genere del jump blues, che era uno stile musicale up tempo piuttosto allegro, ritmato, tra rhythm and blues, jazz, anticipazioni del sound rock and roll, con una sezione di fiati a scandire il ritmo. E lui metteva d'accordo il pubblico nero, il pubblico dei bianchi, e lo ascoltiamo in una versione di una pop song che si intitola Saturday Night Fish Fry con Louis Thomas Jordan. You don't have to pay to use admission if you're a cook or a waiter or a good musician. So if you happen to be just passing by, stopping at the Saturday Night Fish Fry, it was rocking, it was rocking. You never seen such scuffling and shuffling till the break of dawn. It was rocking, it was rocking. You never seen such scuffling and shuffling till the break of dawn. Now my buddy and me was on the main stem, fooling around, just me and him. We thought we could use a little something to eat, so we stopped in at a house on Rampart Street. We knocked on the door and opened with ease, and a lush little miss said, "Come in, please." Before we could even bat an eye, we were right in the middle of a big fish fry. It was rocking, it was rocking. You never seen such scuffling and shoving till the break of dawn. It was rocking, it was rocking. You never seen such scuffling and shoving till the break of dawn. Now the folks was having the time of their life, and Sam was jiving Jimmy's wife, and over in the corner was a beat up grand being played by a big fat piano man. Some of the chicks wore expensive frocks, and some of them had on Bobby socks. But everybody was nice and high, particular Saturday Night Fish Fry. It was rocking, it was rocking. You never seen such scuffling and shuffling till the break of dawn. It was rocking, it was rocking. You never seen such scuffling and shuffling till the break of dawn. Yeah, now my buddy and me, we fell right in. We hollered, let the joy begin. We figured this was a good place to play, but the party was already underway. But all of a sudden the lights went low, and everybody made straight for the front door. I didn't know where I was gonna go, so I stood right there and I fell on the floor. It was rocking, it was rocking. You never seen sis come to that shop until the break of dawn. It was rocking, it was rocking. You never seen sis come to that shop until the break of dawn. Now the women was jumping and screaming and yelling. The bottles was flying and the fish was smelling. And way up above all the noise they made, somebody said, better get out of here, this is a raid. I didn't know we were breaking the law, but somebody reached up and clipped me on the jaw. They had us blocked off from the front and the back, and they were putting us in the wagon like potato sacks. It was rocking, it was rocking. You never see sis scuffling and shoving till the break of dawn. It was rocking, it was rocking. You never seen such coupling and shoving till the break of dawn. I knew that I could get away if I had a chance. I was shaking like I had the St. Vitus dance. I tried to crawl under a bathtub. The policeman said, come on out from under that bug. They took us all out of that house of fire and put us all in that black mirage. They might have missed a pitiful view, but they got both me and my buddy too. It was rocking, it was rocking. You never seen such jumping and shoving till the break of dawn. It was rocking, it was rocking. You never seen such jumping and shoving till the break of dawn. Then they took us to jail in a dazed condition. They booked each one of us on suspicion. My chick came down and went my bail and finally got me out of that rotten jail. Now if you ever want to get a fist in your eye, just mention a Saturday night fish fry. I don't care how many fish in the sea, but don't you ever mention fish to me. It was rocking, it was rocking. You never seen such scuffling and shoving till the break of dawn. It was rocking, it was rocking. You never seen such scuffling and shoving till the break of dawn. Give me one of them fish sandwiches. Get away from that boy. Di nuovo in diretta e Alessano, non mi vorrei lasciare andare troppo ai sentimentalismi, però questa traccia l'ho trovata così navigando, è un live del 2012 a New York ed è una grandissima collaborazione, cioè Keith Richards degli Stones con James Cotton, cioè che è uno dei più grandi armonicisti di sempre. E ho visto questo video, Alessandro, cioè proprio, non lo so, mo difficile rendere così a parole l'immagine che è arrivata a me, però essendo un video così recente, cioè Richards che vestito un po' con questa camicia a quadri sembrava un manovale di velletri in pensione, ti giuro, e James Cotton che c'aveva 6-7 kg di prostata lì su sta sedia con la sua armonica così. Però cioè belli, ma belli loro due ancora, cioè l'energia di un tempo, cioè mi faceva tanto riflettere su che appunto, cioè sono, quella è una cosa che c'hai dentro, perché poi vedi si invecchia, chi sta male, problematiche, abbiamo parlato spesso di anche problematiche pesanti nella vita di questi artisti, però ecco, sti due lì così che stanno più de qua che de là, come si dice dalle nostre parti, e senti che te tirano fuori, ci fanno, ce l'ascoltiamo subito, una versione di un famosissimo brano reinterpretato praticamente un po' da tutti. Nel genere, insomma, ci sono passati un po' tutti su questa canzone. Allora, ragazzi, su Radio Default ci ascoltiamo Little Red Rooster. Super. Thank you. Keith Richards e James Cotton, questa stupenda versione blues rock di Little Red Rooster. E dopo un grande chitarrista, un altro grande chitarrista. Nel 2011 la rivista americana Rolling Stone lo ha inserito nella lista dei 100 chitarristi più grandi di tutti i tempi. Parlo di T-Bone Walker, chitarrista, cantante, autore di canzoni, polistrumentista. Oltre alla chitarra suonava il banjo, ukulele, mandolino, il pianoforte e il violino. Musicista davvero versatile. Era nato nel 1910 in Texas da genitori di origine africana, discendente degli indiani Cherokee. Morto nel 75 a Los Angeles. E T-Bone Walker, uno che il blues ha imparato il blues da piccolo nelle strade del Texas, suonando insieme a niente meno che una leggenda come Blind Lemon Jefferson. Sì, e dice: tu da chi hai imparato a suonare la chitarra? Io, beh, ho imparato a suonare la chitarra da Blind Lemon Jefferson. Insomma, era davvero qualcosa e ha creato un nuovo stile di suonare il blues. Noi ce lo ascoltiamo in G Baby Ain't I Good To You, che è una canzone che parla di tristezza, blues appunto. Buon ascolto su Radio Default. Me treat you the way that I do. Gee, baby, ain't I good to you? Love makes me treat you the way that I do. Gee, baby, ain't I good to you? I bought your fur coat for Christmas, diamond rings, a big Cadillac car, and everything. Love makes me treat you the way I do. Gee, baby, ain't I good to you? Me treat you the way that I do. Gee, baby, ain't I good to you? makes me treat you the way that I do. Gee, baby, ain't I good to you? I bought you a fur coat for Christmas, diamond rings, a big Cadillac car, and everything. Love makes me treat you the way that I do. Gee, baby, ain't I good to you? Gee, baby, ain't I good to you? Gee, baby, ain't I good to you? Torniamo ragazzi, siamo agli sgoccioli di questa stupenda playlist di stasera. Dicevo Alessandro, gli facevo i complimenti perché stasera si è impegnato il ragazzo. Bravo, bravo Alessandro, continua così, mi piaci su questo mood. Senti, come dico, vabbè, non divaghiamo, Alessandro, su, fai il serio 2 minuti, dai. Ringrazio tutti gli ascoltatori di Radio Default. Io ringrazio la gioia che nell'arco degli anni non sembra scemare in me questa passione, e anche il nostro sponsor, i maglioni di Bill Cosby, scusate se ci ripetiamo, ma ci pagano e poi regà, sono stupendi. Magari ne possiamo fare un album sulla pagina con i migliori maglioni di Bill Cosby. C'è anche una linea estiva dei maglioni di Bill Cosby, adesso per luglio-agosto che sta arrivando, una versione light del maglioni, ma sempre con gli inconfondibili motivi a scacchi. No, infatti io non vorrei sembrare opportunista perché magari ci sta ascoltando, ma voglio proprio dirlo che Bill Cosby è un grande, ha segnato la mia infanzia, insomma, vedere le avventure pure dei Robinson mi ha dato tanto. Poi c'era pure il cartone animato di Bill Cosby, ti ricordi? C'è una puntata in cui c'è anche ospite Dizzy Gillespie. Ma davvero? Sì. Sì, e allora, cioè, ragazzi, stasera farò tardi perché ho da fare. Allora, andiamo oltre. Parliamo di lei, è stata una delle grandi del blues, il suo blues è radicato nel country blues piuttosto che nel blues classico, ma fu la prima donna a darsi al blues elettrico, contribuendo così alla nascita del blues urbano di tipico di Chicago. C'era pure un errore, hai visto? Vabbè, comunque, detto appunto Chicago Blues, amici, scusate, ma a una certa ora siamo pure stanchi, possiamo dirlo, Alessandro, possiamo dirlo, dai. Parliamo di Memphis Minnie, un personaggio che vale veramente la pena approfondire, che non ha nulla da invidiare a grandi mostri sacri del genere, e sicuramente l'approfondiremo meglio insieme nelle puntate a venire. Intanto ci ascoltiamo in sequenza due suoi brani, Kissing in the Dark e Called Me Wrong Again. E quindi su Radio Default, per voi, cari fratelli, ci ascoltiamo sorella Memphis Minnie. It is all in a jam, kissing in the dark. hip cat. And nobody knows where she end up, as she been kissing in the dark. Yeah, kissing in the dark. She been kissing in the dark, honey, that's a birthmark. Feel good pal, been swapping up a dime. You think it's Bobby man, throw it out your mind. Kissing in the dark. Kissing in the dark. Kissing in the dark, honey, that's my birthmark. Yeah, let's get it now. Quando un giorno sta per concludersi e una nuova alba sta per iniziare, chiudiamo la puntata di Whisky Trip. Che c'è una querela che c'ha, Alessandro, già copyright che ho violato? No, vabbè, ne parliamo, dai, fammi salutare i nostri ascoltatori, il quale sono contentissimo di aver condiviso questa playlist di un certo livello. Allora, vabbè, c'è Alessandro che adesso ve lo lascio, insomma, vi ascoltate un'ultima traccia insieme. Io invece inizio a occuparmi concretamente, dato che in birra è finito, sì, in birra, in radio è finito tutto l'alcol, diciamo, e quindi vado ad adoperarmi per risolvere questa grave incombenza, visto che la nostra notte blues va avanti e non finisce. Su Whiskey Trip per noi è un lavoro 24/24, diciamo. E va bene, allora, uno stile di vita, ci si nasce un po' così come noi, che culo direte voi amici, però vabbè, insomma, noi ci salutiamo e spero di ritrovarvi tutti mercoledì prossimo. E bella storia, ragazzi, buona serata e a presto. Anch'io vi saluto con l'ultimo pezzo di questa sera, di questa playlist tra blues e jazz, e vi saluto, e con me, insieme a noi, vi salutano anche John Lee Hooker, Rolling Stones e Eric Clapton in una versione dal vivo di Boogie Chillin'. Hey. Thank you, Charlie Hooker. Thank you, Charlie.